Capitolo 3. Le somale. Di alcune ospiti che ebbero una parte importante nella vita della fattoria, non posso dir molto perché non farebbe il loro piacere. Intendo le donne di Farah. Quando Farah si sposò e portò la moglie dalla Somalia, insieme a lei venne uno stormo vivace e delicato di colombe dalla pelle scura. La madre, la sorella minore e una giovane cugina cresciuta in casa. Così si usava al suo paese, mi disse Farah. In Somalia i matrimoni vengono combinati dagli anziani secondo la nascita, la ricchezza e la reputazione dei giovani. Nelle migliori famiglie i due sposi si vedono per la prima volta il giorno delle nozze, ma con la loro natura cavalleresca i somali non abbandonano le fanciulle senza protezione da un giorno all'altro. È buona usanza che il marito vada a vivere per 6 mesi nel villaggio della moglie. Lei, in quell'interregno, serba la sua indipendenza e fa le veci di una padrona di casa influente e ben nota nella sua cerchia. Quando questo è impossibile, amiche e parenti non esitano a tenerle compagnia nel primo periodo di vita matrimoniale, anche se per loro significa lasciare la casa e seguirla in paesi lontani. Al gruppo delle somale si aggiunse in seguito una ragazzina della loro tribù, orfana di madre. Farah l'adottò. Forse, come Mordecai con Esther, pensava anche di guadagnarci qualcosa al momento di darle marito. La bambina aveva un carattere gaio e vivacissimo. Fu strano osservare come, via via che cresceva, le ragazze per educarla la trasformassero scrupolosamente in una perfetta vergine come il Fo. Quando venne a vivere con noi aveva 11 anni e scappava continuamente dalla famiglia per seguirmi ovunque, cavalcava il mio pony e portava il mio fucile. Talvolta correva allo stagno in gara coi Totos Kikuyu. Là, rimboccatasi la sottana, galoppava a piedi nudi intorno all'argine, aiutando a tirar su con una reticella i pesci presi all'amo. Completamente rasate, le bambine somale hanno solo un anello di ricci neri intorno al capo e in cima una lunga ciocca e un'acconciatura deliziosa. La piccola, così pettinata, sembrava un giovane monaco gaio e pieno di malizia. Ma col tempo, sotto l'influenza delle ragazze più grandi, divenne un'altra. Lei stessa, tutta presa e affascinata dal processo di quella trasformazione, quasi le avessero legato alle gambe un gran peso, cominciò a camminare lenta, lenta. Teneva gli occhi bassi, come vuole la buona creanza, e si faceva un punto d'onore di sparire appena arrivava un estraneo. I capelli non li tagliava più. Quando furono abbastanza lunghi, le altre glieli spartirono in tante treccine. La novizia si sottometteva spontaneamente, con gravità e orgoglio, a tutte le sofferenze del rito. Sarebbe morta piuttosto che venir meno ai doveri che esso imponeva. La vecchia suocera, mi disse Farah, era molto stimata al suo paese per l'educazione impartita alle figlie, che, agli occhi delle ragazze del posto, costituivano lo specchio della moda e il simbolo della perfetta femminilità. Effettivamente erano di un riserbo e di una dignità squisite. Non ho mai conosciuto donne più signorili. Lo stile dei loro abiti faceva risaltare ancor più la loro compostezza. Portavano gonne di ampiezza maestosa che richiedevano almeno 10 metri di stoffa ciascuna. Lo so perché ho comprato io stessa diverse volte la seta o il cotone stampato. Fra mezzo a tutta quella massa, le loro ginocchia sottili si muovevano, seguendo un ritmo misterioso ed insinuante. La madre era una figura imponente, robusta, con la maestosa e benevola placidità di un'elefantessa conscia della sua forza. Non l'ho mai vista arrabbiata. Maestri e pedagoghi avrebbero invidiato la sua capacità di guidare senza costringere. Da soggezione e compito faticoso, l'educazione nelle sue mani diveniva una nobile congiura a cui solo pochi avevano il privilegio di venire ammesse. La casetta che avevo fatto costruire per loro nei boschi pareva una piccola scuola di magia bianca, e le tre ragazze che passeggiavano con tanta grazia per i viottoli, tre giovani apprendiste dedite con passione allo studio della stregoneria, sapendo che un giorno ne avrebbero tratto grande potenza. Gareggiavano in bravura con spirito cameratesco. Forse, quando siamo veramente sul mercato e il nostro prezzo viene discusso sotto i nostri occhi, la concorrenza assume un carattere di franchezza e di onestà. La moglie di Farah, ormai fuori concorso, Aveva una posizione speciale, come il bravo studente già diplomato in stregoneria. La si vedeva spesso chiacchierare confidenzialmente con la vecchia capomaga, onore che non toccava mai alle figlie non sposate. Avevano tutte una grande opinione del loro valore. Una vergine maomettana non può sposare un uomo di livello inferiore. La famiglia sarebbe colpita dal biasimo generale. Un uomo non merita tanti riguardi. Può sposare anche una ragazza di condizione meno elevata. Molti giovani somali sposavano donne masai. Tuttavia, mentre una ragazza somala può sposare un arabo, una ragazza araba non può sposare un somalo. Gli arabi, più vicini al profeta, si considerano una razza superiore. Fra gli stessi arabi, poi, una ragazza della famiglia del profeta deve unirsi in matrimonio con un giovane della famiglia del profeta. In virtù del loro sesso, le donne di quella razza possono pretendere di salire nella scala sociale. È il principio, affermano loro stessi ingenuamente, su cui si basa l'allevamento dei purosangue. I somali, infatti, danno gran valore alle giumente. Quando presero confidenza, le ragazze mi chiesero se veramente, come si diceva, certi popoli in Europa maritavano le figlie per nulla. Avevano saputo anche, ma proprio non riuscivano a crederlo, che c'era una tribù tanto depravata da pagare lo sposo. Vergogna e onta su simili genitori e sulle fanciulle che si lasciavano trattare così. Non avevano dunque nessun rispetto per se stesse, per la donna e per la verginità. Se fossero state tanto disgraziate da nascere in quella tribù, dissero, avrebbero fatto voto di morire zitelle. Oggi in Europa la tecnica della pruderie femminile non si studia più, né dai libri è possibile immaginarne il fascino, ma ora capivo perché il mio nonno e il mio bisnonno fossero costretti a cadere in ginocchio. La tecnica delle somale è allo stesso tempo necessità naturale e arte, religione, strategia, balletto, è applicata sempre con la debita devozione, disciplina e abilità. La sua grande dolcezza deriva dal gioco delle forze opposte che racchiude. L'eterno principio del rifiuto cela un'enorme generosità. La pedanteria nasconde il riso e il disprezzo della morte. Queste figlie di una razza battagliera eseguivano il loro cerimoniale di buona creanza come una deliziosa danza di guerra. Sotto l'apparenza pudibonda e modestina erano pronte a bere il sangue dell'avversario, come tre lupe fameliche travestite da agnelli. Temprati nel deserto e sul mare, i somali non cedono mai. Le asprezze, le avversità e le bonacce dell'esistenza che conducono da secoli devono aver fatto le loro donne di quell'ambra tanto inflessibile e splendente. Le somale portarono nella casa di Farah l'atmosfera dell'accampamento nomade, che può essere levato in qualsiasi momento. Le pareti erano ricoperte di tappeti e drappi ricamati. L'incenso, elemento essenziale, nelle loro case bruciava continuamente. Gli incensi somali sono in genere dolcissimi. Frequentavo poche donne alla fattoria, ma mi piaceva passare un'ora tranquilla al tramonto in casa di Farah. Si interessavano di tutto, divertendosi di piccole cose. Bastava un incidente da nulla, uno scherzo sulle faccende della fattoria, perché le loro risa riempissero la casa come un concerto di campanelle. Se mostravo loro come si fa la calza, ridevano come ad uno spettacolo di burattini. Nella loro innocenza sapevano tutto della vita. Avevano visto nascita e morte e ne avevano discusso freddamente i particolari con la vecchia madre. Talvolta, per divagarmi, mi raccontavano fiabe stile Mille e una notte, per lo più nel genere comico, in cui le cose d'amore erano descritte con assoluta franchezza. Immancabilmente in quei racconti l'eroina, casta o non casta, riusciva a sottomettere gli uomini alla sua volontà e a trionfare. La madre ascoltava, sorridendo. Là, entro le mura e le fortificazioni, per così dire, dell'asserragliato mondo femminile, avvertivo la presenza di un alto ideale senza il quale la guarnigione non avrebbe potuto reggere l'assedio con tanto coraggio. L'idea di un mondo in cui le donne avrebbero regnato sovrane. La vecchia madre in quei momenti assumeva un aspetto diverso, pareva sedere in trono come il maestoso bruno simulacro della potente divinità femminile esistita in tempi antichissimi, prima dell'era del dio profeta. Era il loro segreto modello, la loro dea. Ma gente pratica innanzitutto capivano che non ci si deve fossilizzare, sapevano adattarsi, essere malleabili. Mi ponevano un sacco di domande sugli usi europei, ascoltando attente le mie descrizioni sul modo di comportarsi e di vestire delle donne bianche. Evidentemente volevano perfezionare la loro tattica, imparando come si conquistano e si sottomettono i maschi di un'altra razza. Attribuivano un'enorme importanza ai vestiti, cosa comprensibile, dato che per loro rappresentavano allo stesso tempo le armi, il bottino e il simbolo della vittoria, come bandiere conquistate. I loro uomini, i somali, sono naturalmente inclini all'astinenza. Severi e frugali, come la loro terra, non tengono in gran conto né il mangiare, né il bere, né le comodità. Unico loro lusso è la donna. Per essa, bene supremo della vita, diventano avidi e insaziabili. Cavalli, cammelli e greggi, per quanto apprezzati, non valgono mai quanto lei. E le donne li incoraggiano in entrambe le tendenze. Da un lato ostentano un feroce disprezzo per ogni mollezza, dall'altro tengono alto il proprio prezzo anche a costo di grandi sacrifici. Persino per comprarsi un paio di pantofole queste donne dipendono dall'uomo. Non sono padrone di se stesse, ma appartengono sempre ad un maschio, sia esso il padre, il fratello o il marito. Eppure rappresentano il premio più grande della vita. È incredibile quante sete, ori, ambre, coralli riescano ad ottenere dai loro uomini. È incredibile e fa onore a tutti e due. Al termine dei lunghi, estenuanti safari, tutti i rischi, i gravi disagi, gli stratagemmi e le privazioni subite venivano convertiti in ornamenti e gioielli per le donne. Le ragazze giovani, che non avevano uomini da sfruttare, passavano ore ed ore ad acconciarsi i capelli, nelle loro piccole tende, sognando il momento in cui avrebbero conquistato i conquistatori, depredato i predoni. Si prestavano volentieri gioielli l'una con l'altra e si divertivano a vestire la sorella minore, la bellezza di casa, con gli abiti migliori della sorella sposata. Le mettevano persino in testa, ridendo, il copricapo in tessuto d'oro che alle vergini è proibito indossare. I somali hanno il vizio delle liti e dei processi interminabili. Quasi sempre c'era una causa in corso per cui o farà, doveva recarsi a Nairobi o si tenevano assemblee alla fattoria. In quelle occasioni, se capitavo a casa loro, la vecchia, con grande tatto e intelligenza, cercava di sapere come andassero le cose. Avrebbe potuto informarsi direttamente da Farah, che le dimostrava il massimo rispetto e non le avrebbe tenuto nascosto nulla, ma preferiva la strada traversa, credo per diplomazia. In tal modo, se le faceva comodo, poteva continuare a recitare la parte della donna che non si immischia negli affari degli uomini e non ne capisce un'acca. Se dava un consiglio, lo dava come la sibilla, per ispirazione divina, e nessuno avrebbe potuto poi rinfacciarglielo. Per le assemblee e le grandi feste religiose, le donne somale si prodigavano a sistemare tutto e a preparare il pranzo. Non partecipavano al banchetto e non potevano entrare nella moschea, ma si facevano un punto d'orgoglio che la festa riuscisse in modo perfetto. Nemmeno fra loro confessavano quanto ci tenevano. In quelle circostanze mi ricordavano talmente le dame della generazione passata al mio paese che nella fantasia le vedevo col puff e il lungo strascico stretto. Proprio come loro, le donne scandinave dei tempi di mia madre e di mia nonna, schiave civilizzate di barbari bonari, facevano gli onori di casa in quelle grandi e sacre feste maschili che erano la caccia al fagiano e le battute dell'autunno. I somali sono stati proprietari di schiavi per generazioni e generazioni, e le loro donne andavano d'accordo con gli indigeni, che trattavano con placido distacco. Per un indigeno servire i somali e gli arabi è meno difficile che servire i bianchi, perché la gente di colore ha sempre e dappertutto lo stesso ritmo di vita. La moglie di Farah riscuoteva grandi simpatie fra i kikuyu della fattoria e Camante lodava sempre la sua intelligenza. Con i miei amici bianchi, che venivano spesso a stare alla fattoria, come Berkeley Cole e Dennis Finch Hatton, le giovani somale si comportavano in modo cordiale. Ne parlavano volentieri ed evidentemente sapevano un sacco di cose su di loro. Incontrandoli, non avevano timore a scambiarci due chiacchiere fraternamente, le mani nascoste nelle pieghe della gonna, ma c'era una complicazione nei loro rapporti. Berkeley e Dennis avevano domestici somali. Con costoro le ragazze non si dovevano incontrare per nessuna ragione al mondo. Bastava che gli inturbantati, magri occhi neri, Jama e Bilea spuntassero alla fattoria perché le mie somale si dileguassero. Neppure una bollicina restava nel punto in cui si erano sprofondate. Se dovevano parlarmi, venivano tutte e tre, sgattaiolando furtive lungo i muri, le facce coperte dalla gonna tesa di una di loro. A sentirli, gli inglesi erano felicissimi di non suscitare tanto imbarazzo, ma in cuor loro, immagino, sentivano uno spiffero freddo al vedersi considerare inoffensivi. Talvolta conducevo le ragazze in gita o in visita, chiedendo sempre naturalmente il permesso alla madre per non offuscare una reputazione immacolata come la fronte di Diana. Ogni tanto, una signora australiana che abitava non lontano dalla fattoria e che per qualche anno fu una vicina incantevole, ci invitava a prendere il tè. Era un grande avvenimento per le somale. Si facevano belle come mazzolini di fiori. Per tutta la strada, la macchina dietro di me echeggiava di cinguettii come un'uccelliera. Tutto le interessava e le affascinava: la casa, i vestiti, perfino, mentre andava a cavallo, guidava l'aratro in lontananza, il marito della mia amica. Servito il tè, venivo a sapere che solo la sorella sposata e i bambini potevano berlo. Alle ragazze era proibito perché troppo eccitante, dovevano contentarsi dei dolci. Si sottomisero alla regola con grande grazia e compostezza. Sorse qualche dubbio a proposito della ragazzina che era con noi. Era ancora lecito a lei prendere il tè o aveva già l'età in cui sarebbe stato pericoloso? La sorella sposata disse di no, ma la bambina, con sguardo cupo, profondo e pieno di orgoglio, rifiutò la tazza. La cugina era una ragazza riflessiva, dagli occhi di un marrone caldo, leggeva l'arabo e sapeva a memoria interi passi del Corano. Aveva una mente teologica e spesso discutevamo della religione e dei miracoli del mondo. Appresi da lei la vera parafrasi della storia di Giuseppe e della moglie di Putifarre. Ammetteva che Gesù era nato da una vergine, ma non che fosse figlio di Dio, perché Dio non può avere figli nella carne. Mariammo, la più bella delle vergini, stava passeggiando in giardino quando un grande angelo inviato dal Signore le aveva toccato la spalla con l'ala. Così ella aveva concepito il figlio. Un giorno, durante una delle nostre discussioni, le mostrai una cartolina postale con la statua di Cristo del Thorvaldsen, che si trova nella cattedrale di Copenaghen. Allora, in un suo modo estatico e delicato, si innamorò del Salvatore. Non si stancava mai di sentirne parlare. Mentre raccontavo, sospirava, cambiava colore. Giuda la turbava moltissimo. Che razza di uomo era? Come potevano esserci persone così? Avrebbe voluto cavargli gli occhi con le sue mani. Era una grande passione, di una sostanza simile all'incenso che bruciava nelle loro case, fatto con legno nero di boschi lontani, dolce e strano per i nostri sensi. Chiesi ai padri francesi se potevo portare il mio gruppetto di donne maomettane alla missione. Quando, con la loro usuale calda cordialità, contenti di ogni cosa nuova, dissero di sì, vi andammo in macchina un pomeriggio. Una alla volta entrarono nella chiesa piena di fresco. Non avevano mai messo piedi in un luogo così grandioso. Alzati gli occhi al soffitto, si coprirono la testa con le mani per proteggersi nel caso fosse dovuto crollare. V'erano anche delle statue, a parte la famosa cartolina, le ragazze non avevano mai visto nulla di simile in vita loro. Rimasero estasiate dinanzi a una statua della Vergine di San Giuseppe col bambino in collo. Sospiravano commosse della bellezza della Madonna, grande al vero, bianca e celeste con un giglio in mano. Conoscevano già San Giuseppe, lo ammiravano molto perché era stato un marito leale, aveva protetto la Vergine. Ora, vedendolo reggere il bambino invece della moglie, lo guardavano con occhi pieni di riconoscenza. Per tutto il tempo che si rimase in chiesa, La moglie di Farah, incinta, non si staccò dalla Sacra Famiglia. I padri andavano molto orgogliosi delle loro finestre, ricoperte di una carta speciale a imitazione delle vetrate dipinte e con le scene della Passione di Gesù. La cugina si estasiò a contemplarle. Girava per la chiesa senza mai distoglierne lo sguardo, torcendosi le mani, piegando le ginocchia, come sotto il peso della croce. Al ritorno parlarono pochissimo, nel timore, credo, di rivelare la loro ignoranza con domande fuori posto. Solo 2 giorni dopo mi chiesero se i padri erano in grado di far discendere la Vergine o San Giuseppe dai loro piedestalli. Il matrimonio della cugina giovane fu combinato alla fattoria. Per le nozze prestai alle somale un bel bungalow che in quel periodo era vuoto. La festa, splendida, durò 7 giorni. Assistei alla cerimonia principale quando una processione di donne accompagnò cantando la sposa incontro alla processione degli uomini che conducevano lo sposo. Lo vedeva allora per la prima volta, chissà se l'aveva immaginato somigliante al Cristo di Thorvaldsen, mi chiedevo, o se aveva avuto due ideali, un amore celeste e uno terreno, come nei romanzi cavallereschi. Tornai spesso al bungalow durante la settimana, a qualunque ora risuonava del frastuono della festa e odorava dell'incenso nuziale. Si alternavano danze di spade e grandi danze di fanciulle. I vecchi trattavano importanti affari di bestiame, chi sparava il fucile, chi arrivava, chi ripartiva sui carretti trainati da muli. La notte, alla luce delle lampade antivento, sulla veranda, tra la fila dei carri e la casa, era un incessante andirivieni delle più belle tinte d'Arabia e di Somalia: cremisi, prugna, bruno del Sudan, rosa del Bengala, giallo zafferano. Alla fattoria nacque anche il figlio di Farah, Ahmed. Lo chiamarono Saufe, che significa, credo, sega. Nel suo cuore non vi era traccia della timidezza dei bambini Kikuyu. Ancora in fasce, insaccato come una ghianda, tutto testa, una testa tonda e nera sul corpicino piccolo piccolo, si rizzava su e ti fissava dritto in viso. Pareva di avere un falchetto sul braccio o un leoncino sulle ginocchia. Aveva ereditato la gaiezza della madre e appena fu in grado di correre liberamente divenne l'eroe di audaci, allegre avventure, un grande personaggio nel mondo dei piccoli indigeni. Capitolo 4. Il vecchio Knudsen. Alla fattoria di tanto in tanto capitava qualche europeo, come un relitto trascinato dalla corrente in una baia tranquilla, che rimane lì a girare su se stesso finché non riprende il largo, oppure disfacendosi va a fondo. Il vecchio Knudsen, il danese, arrivò alla fattoria malato e mezzo cieco e ci rimase tutto il tempo che gli ci volle a morire, come un animale sperduto. Camminava tutto curvo sulla sua miseria, restava muto per giorni e giorni per quel gran peso che gli toglieva la forza di parlare, o se provava a dire qualcosa, la sua voce pareva l'ululato di un lupo o di una iena. Quando riprendeva fiato e le sue sofferenze gli concedevano una breve tregua, il fuoco morente mandava ancora lampi. Veniva a trovarmi e mi raccontava quanto dovesse lottare contro la sua morbosa inclinazione alla malinconia, un'assurda tendenza a vedere tutto nero. Assurda, diceva, perché le cose non andavano affatto male, tutt'altro che male, diavolo. Pessimismo, pessimismo, ecco cos'era, un pessimo vizio. Fu Knudsen che, in un momento in cui alla fattoria eravamo più al verde del solito, che mi consigliò di fare il carbone e di venderlo agli indiani di Nairobi. Si potevano guadagnare migliaia di rupie, mi assicurò, e doveva andare bene per forza sotto l'egida del vecchio Knudsen, perché nella sua tumultuosa carriera era stato anche all'estremo nord della Svezia imparando il mestiere alla perfezione. Si assunse lui l'incarico di insegnarlo agli indigeni. Lavorando insieme nei boschi, facevano lunghe chiacchierate. Bruciare la legna per fare il carbone è un'occupazione piacevole, indubbiamente ha qualcosa di inebriante. Chi vi lavora, è risaputo, vede le cose in una luce particolare, è incline alla poesia e alla fantasticheria. I demoni della foresta vengono a tenergli compagnia. È bello il carbone quando lo si rovescia per terra dal forno incandescente. liscio come seta, materia liberata dalle scorie e dal peso, divenuta eterna, piccola, saggia mummia nera del legno. Anche la mise en scène è stupenda. Abbattendo le fratte, i grossi tronchi non sono adatti per il carbone, ci sovrastava soltanto la corona degli alberi alti. Nella pace piena d'ombra della foresta africana, il legno tagliato ha il profumo del ribes e l'odore inconfondibile, vivo, aspro e penetrante del forno infiammato ci rinvigoriva come una brezza marina. Regnava in quei luoghi un'atmosfera teatrale. All'equatore, dove teatri non esistono, ciò aveva un fascino infinito. Esili spirali di fumo azzurrino si levavano qua e là dai forni, a distanze regolari. I forni sembravano le tende di un accampamento di contrabbandieri o di soldati in una scena d'opera romantica. I corpi bruni degli indigeni si muovevano là in mezzo senza rumore. Dove si tagliano le fratte, nella foresta africana, compaiono a sciami le farfalle che si posano a grappoli sui rami abbattuti. Ogni cosa era piena di mistero e di innocenza. La figuretta curva del vecchio Knudsen si intonava mirabilmente all'insieme. Trovato finalmente un lavoro adatto per lui, saltellava qua e là, leggero, coi suoi capelli rossi, ora schernendo e ora incoraggiando, come un puck diventato vecchio e cieco e pieno di malizia. Coscienziosissimo nel lavoro, era di una pazienza straordinaria con i suoi apprendisti. Non sempre ci trovavamo d'accordo. A Parigi, da ragazza, avevo frequentato una scuola d'arte e avevo imparato che il legno di olivo dà il carbone migliore. Ma Knudsen diceva che l'olivo non ha nodi e che per mille diavoli tutti sanno che il cuore delle cose è nei loro nodi. Ma un particolare nel bosco servì a mitigare i bollori di Knudsen. Gli alberi in Africa hanno un fogliame delicato, digitiforme. Così, quando si taglia la macchia fitta e si svuota, per così dire, la foresta dal di dentro, la luce diventa come la luce nei boschi di faggio al mio paese, quando le foglie cominciano a spuntare. Lo dissi a Knudsen e l'idea evidentemente gli piacque. Da allora si divertì a immaginare di trovarsi in Danimarca ad un picnic per il giorno della Pentecoste. Finché restammo lassù, continuò ad inseguire quella fantasia, battezzando un vecchio albero cavo col nome di Lottenburg, un luogo di divertimento presso Copenaghen. Una volta nascosi nei recessi del tronco qualche bottiglia di birra danese e lo invitai a bere là dentro, guadagnandomi i suoi complimenti per il mio spirito. Accesi i forni, ci mettevamo a sedere e chiacchieravamo delle cose della vita. Fu così che seppi tanti episodi del suo passato e le strane avventure capitategli dovunque arrivasse nel suo vagabondaggio. Era d'obbligo in quelle conversazioni parlare sempre del vecchio Knudsen, il giusto, l'unico, se non si voleva piombare nel nero pessimismo di cui ci faceva baluginare dinanzi lo spettro. Aveva provato di tutto, visto di tutto, naufragi, epidemie, pesci dai colori incredibili, gorghi, trombe marine, tre soli in cielo nello stesso momento, falsi amici, nera perfidia, successi effimeri e piogge d'oro che cessavano di colpo come erano cominciate. Dalla sua odissea emergeva un sentimento potente, l'odio per la legge, per le sue opere e per i suoi monumenti. Ribelle nato, vedeva un compagno e un amico in ogni fuorilegge. Un'impresa eroica per lui significava un atto di sfida alla legge. Gli piaceva parlare di re, di famiglie reali, di giocolieri, di nani e di lunatici, tutti fuorilegge per lui, e di qualsiasi delitto, rivoluzione, truffa o scherzo che rappresentasse una ribellione contro la legge. Per i bravi cittadini, invece, aveva un profondo disprezzo. Chi ubbidiva la legge, a suo parere, aveva l'anima del servo. Non rispettava e non credeva nemmeno nella legge di gravità. Me ne resi conto durante il taglio degli alberi. Non c'era motivo, secondo lui, perché uomini senza pregiudizi e intraprendenti non potessero dimostrare esattamente il contrario. Voleva farmi ricordare per forza i nomi di certi amici suoi, per lo più truffatori e furfanti, ma mai nei suoi racconti accennò ad una donna. Come se il tempo avesse cancellato dalla sua memoria sia le dolci ragazze di Elsinore che le prostitute spietate dei porti. Tuttavia intuivo nella sua vita la presenza costante di una donna sconosciuta. Non so chi fosse. La moglie, la madre, la maestra o la moglie del suo primo principale. Dentro di me io la chiamavo Madame Knudsen. Immaginavo fosse piccola di statura come lui. Era la donna che guasta il piacere dell'uomo, la donna che ha sempre ragione, la moglie che a letto fa predica al marito, la donna di casa che ha i giorni fissi per le pulizie di fondo, quella che si oppone a ogni iniziativa, che lava il muso ai ragazzi e strappa di sotto il bicchiere di gin al marito. La legge e l'ordine personificato. Nella sua sete di potere assoluto somigliava un po' alle donne somale. Solo Madame Knudsen non sognava di rendere schiavo l'uomo con l'amore, ma voleva governare con la ragione e il diritto. Knudsen doveva averla conosciuta da giovane, quando era ancora abbastanza sensibile da subirne un trauma incancellabile. Per sfuggirle si era imbarcato. Lei odiava il mare e non l'avrebbe mai raggiunto. Ma appena tornato a terra, in Africa, era caduto di nuovo nelle sue mani. Col suo cuore ribelle e i suoi capelli rossi, ormai sul punto di incanutire, la temeva più di qualsiasi uomo e in ogni donna credeva di riconoscere una Madame Knudsen camuffata. Il carbone alla resa dei conti si dimostrò tutt'altro che un buon affare. Ogni tanto si incendiava un forno e tutti i nostri guadagni se ne andavano in fumo. Per Knudsen fu un grosso dispiacere e almanaccava quali potessero essere le ragioni del nostro insuccesso. Finalmente dichiarò che nessuno al mondo può fare il carbone senza una buona riserva di neve sottomano. Mi aiutò anche a costruire un laghetto nei campi. La strada della fattoria a un certo punto si incuneava per una conca erbosa dove sgorgava una sorgente. Pensai di alzare un'argine trasformandola in un lago. In Africa ci si trova spesso a corto di acqua, sarebbe stato un gran vantaggio portare le bestie ad abbeverarsi nei campi senza dover arrivare fino al fiume. Ci pensavamo giorno e notte alla fattoria e se ne discusse a lungo. Quando l'argine fu finalmente terminato, ci pareva di aver elevato un monumento. Era lungo una sessantina di metri. Il vecchio Knudsen, instancabile, insegnò a Puran Singh come costruire una gottazza adatta. Ma quando, dopo un lungo periodo di siccità, cominciarono le grandi piogge, sorsero delle complicazioni. L'argine non reggeva, cedeva in diversi punti e più di una volta fu quasi spazzato via. Knudsen allora inventò un sistema per rinforzare il terrapieno, farci passare sopra buoi e greggi che venivano condotti all'abbeveratoio. Pecore e capre, una per una, dovevano contribuire alla grande opera, indurire la terra con i loro zoccoli. Scoppiarono liti furibonde con i pastorelli perché Knudsen voleva che le bestie camminassero adagio, mentre gli impetuosi Totos pretendevano di farle passare al galoppo, le code in aria. Alla fine, col mio aiuto, riuscì ad avere la meglio. La lunga fila degli animali che avanzavano tranquilli lungo l'argine stretto pareva, contro il cielo, la processione diretta all'arca di Noè. E il vecchio Knudsen, mentre li contava col bastone sotto il braccio, era il costruttore, Noè, soddisfatto all'idea che presto tutto sarebbe stato sommerso tranne lui. Con il tempo riuscimmo ad avere molta acqua nel lago, in certi punti alta più di 2 metri. In mezzo ci passava la strada e l'insieme faceva un bellissimo effetto. Più tardi costruimmo 2 alti argini più in basso, ottenendo una serie di laghetti uno accanto all'altro come le perle di una collana. Il lago divenne allora il cuore della fattoria, sempre pieno di vita, circondato dai bambini e dalle greggi. Durante la stagione calda, quando tutti gli stagni si asciugavano, nella pianura e sulle colline venivano anche gli uccelli: aironi, ibis, martin pescatori, quaglie, oche, anatre di varietà diverse. E la sera, quando spuntavano le prime stelle, andavo a sedermi lì accanto. A quell'ora tutti gli uccelli tornavano a casa. Gli uccelli acquatici, a differenza degli altri, hanno una meta sicura nel loro volo. Sono in viaggio, diretti in un posto preciso. Quanta bellezza in quei viandanti, in quei selvatici nuotatori che inseguono la preda. Nel cielo limpido come vetro, le anatre chiudevano la loro orbita, lanciandosi senza rumore nell'acqua scura. Come frecce che un arciere celeste si lasciasse cadere dietro le spalle. Una volta nel lago uccisi un coccodrillo. Strano che fosse arrivato fin là. Doveva essere venuto dal fiume Ati, distante ben 20 chilometri. Come aveva saputo che avrebbe trovato dell'acqua, dove prima non c'era? Finito il primo laghetto, Knudsen dichiarò che bisognava metterci dei pesci. In Africa esiste un tipo di pesce persico, saporitissimo. Accarezzammo a lungo l'idea di poter fare ricche pesche alla fattoria. Procurarsi il pesce persico, però, era tutt'altro che facile. Il centro della caccia aveva qualche allevamento nei suoi vivai, ma ancora non permetteva di pescarlo. Knudsen, in gran segreto, mi confidò di conoscere uno stagno di cui nessun altro sapeva l'esistenza e dove avremmo potuto prendere tutto il pesce che volevamo. Potevamo andare con la macchina, mi spiegò. Una volta lì non restava che buttare le reti e pescare. Il pesce poi potevamo portarlo a casa in tini e latte perché non morisse lungo la strada. Bisognava metterci, oltre l'acqua, un po' di alghe. Illustrandomi tutti i particolari, tremava tanto si sentiva esaltato dal suo piano. Preparò persino con le sue mani una delle famose e inimitabili reti. Ma man mano che il momento di attuarla si avvicinava, la spedizione pareva sempre più misteriosa. Doveva essere una notte di luna piena, diceva, verso la mezzanotte. Da principio avevamo deciso di portare tre dei miei domestici, ma cominciò a dire che bastavano due, poi uno solo, e continuò a domandarmi se era fidato. Finalmente arrivò alla conclusione che forse non era indispensabile nemmeno quello, meglio andare noi due soli. Non mi parve una buona idea. Non saremmo stati capaci di portare i tini dentro la macchina, ma Knudsen continuava ad insistere e a ripetere che nessuno doveva saperne nulla. Avevo degli amici al dipartimento di caccia e non potei fare a meno di chiedergli a chi appartengono, insomma, questi pesci, Knudsen. Non rispose. Sputò, un vero sputo da vecchio marinaio. Schiacciatolo con la punta della scarpa rattoppata, girò sui tacchi e si allontanò con lugubre lentezza, la testa sprofondata in mezzo alle spalle. Ormai non ci vedeva più, ma andava a tentoni, aiutandosi con il bastone. Era di nuovo un vinto, un fuggiasco senza patria, in un mondo meschino e senza calore. E come se con quel gesto mi avesse fatto un incantesimo, rimasi immobile dove mi aveva lasciato, vittoriosa, nelle pantofole di Madame Knudsen. Della spedizione non parlammo mai più. Solo qualche tempo dopo la sua morte riuscii ad avere, con l'aiuto del dipartimento di caccia, un vivaio di pesce persico che prolificò e si moltiplicò. Unendo la sua vita quieta, fredda, muta, restia, alla vita del lago. Nel pieno del giorno, passandoli accanto, si vedevano scivolare proprio sotto la superficie come pesci di vetro scuro nell'acqua che non traspariva, invasa dal sole. Quando arrivava un ospite, all'improvviso, spedivamo il mio toto tumbo al laghetto con una canna da pesca molto primitiva. Riusciva a pescare anche pesci di 2 libbre. Quando trovai il vecchio Knudsen morto nel viottolo, mandai un ragazzo ad informare la polizia di Nairobi. Volevo seppellirlo alla fattoria, ma la sera, sul tardi, 2 ufficiali di polizia vennero a prenderlo in macchina con una bara. Intanto era scoppiato un temporale. Principiava la stagione delle grandi piogge e l'acqua toccava già a quasi 10 centimetri. Per arrivare alla casa del vecchio Knudsen dovemmo traversare enormi pozzanghere sotto una pioggia torrenziale. Mentre lo portavamo sulla macchina, i tuoni rombavano sopra le nostre teste come cannoni. I lampi divampavano da tutte le parti, fitti come spighe in un campo di grano. La macchina, senza catene, teneva a malapena la strada, slittando a destra e a sinistra. Il vecchio Knudsen si sarebbe divertito, sarebbe stato soddisfatto di quel suo exit dalla fattoria. Più tardi ebbi una discussione abbastanza vivace con il municipio di Nairobi a proposito del funerale e dovetti tornare in città più di una volta. Era un lascito di Knudsen, un ultimo torneo per procura contro la legge. Così non mi sentivo più Madame Knudsen, ma un fratello. Capitolo 5. La sosta del fuggiasco. Ogni tanto mi torna in mente un uomo che venne alla fattoria, dormì da noi solo una notte e se ne andò per sempre. Era un certo Emanuelson, uno svedese che avevo conosciuto quando faceva il maître d'hôtel in un albergo di Nairobi. Giovane e grassoccio, dal rosso viso paffuto, aveva il vizio di restare in piedi accanto alla mia sedia mentre pranzavo, raccontandomi con voce untuosa vecchie storie del paese e di comuni conoscenti, tanto insistente con le sue chiacchiere che alla fine decisi di trasferirmi nell'unico altro albergo della città. Allora sapevo ben poco sul suo conto. Pareva avesse un talento speciale per mettersi nei pasticci e gusti e idee non del tutto ortodossi sui piaceri della vita. Un pomeriggio mi si presentò improvvisamente alla fattoria, sconvolto e impaurito. Voleva un prestito per recarsi a Tanganica, altrimenti, diceva, sarebbe finito in galera. Forse il mio aiuto giunse troppo tardi, o forse egli lo adoperò per altri scopi. Seppi poco dopo che era stato arrestato a Nairobi. Non fu messo in carcere, ma per un pezzo sparì dal mio orizzonte. Una sera, tornando a cavallo, scorsi nel buio davanti alla casa, sotto le stelle, qualcuno che aspettava seduto su un sasso. Emanuelson. Per farsi riconoscere, disse in tono cordiale: «C'è un vagabondo, baronessa!» Gli chiesi come mai si trovasse lì. «Aveva perso la strada», rispose, «ed era arrivato fino a casa mia. La strada per dove? Per Tanganica?» Stentavo a credergli. «La strada per Tanganica era una grande carrozzabile, facile da trovare!» E da essa si staccava la strada che conduceva alla mia fattoria. Come pensava di raggiungere la sua meta? Gli chiesi. A piedi, rispose. A piedi era impossibile, obiettai. Significava stare 3 giorni senza acqua per attraversare la riserva Masai, dove i leoni si erano incattiviti. Proprio quel giorno i Masai, venuti a lamentarsi, mi avevano pregato di andare da loro ad ammazzare qualche belva. Sì, Emanuelson sapeva benissimo tutto questo, ma intendeva ugualmente andare a piedi a Tanganica. Non gli restava altro da fare. Gli avrei permesso di cenare con me ora che aveva perso la strada? Dormendo alla fattoria avrebbe potuto ripartire la mattina dopo di buon'ora, altrimenti doveva rimettersi in cammino subito per profittare della luce delle stelle. Per fargli capire che non poteva considerarsi mio ospite e che non avevo nessuna intenzione di invitarlo a cena, ero rimasta a cavallo. Ma dal suo atteggiamento mi resi conto che non si aspettava affatto di essere invitato. Non aveva nessuna fiducia nella mia ospitalità né nel suo potere di persuasione. Nel buio, davanti alla casa, sembrava veramente un poveraccio sperduto senza amici. La sua disinvoltura non serviva affatto a salvare la sua dignità, persa da un pezzo, ma la mia. Mandarlo via non sarebbe stato uno sgarbo, ma una cosa naturalissima. Era un gesto di cortesia da parte di un animale ferito. Affidai il pony a Sice. Entri, Emanuelson, dissi. Può restare a cena e passare la notte qui. Il sospetto, nella stanza illuminata, mi fece pena. La barba, i capelli lunghi, le scarpe sfondate. Indossava un lungo soprabito nero di quelli che in Africa non si portano mai. Andava a Tanganica senza bagaglio, a mani vuote. M'era toccata, pareva, la parte del gran sacerdote che manda la capra viva nel deserto, offrendola in olocausto al Signore. Ci vuole un po' di vino, pensai. Berkeley Cole, che in genere provvedeva al vino di casa, mi aveva spedito qualche tempo prima una cassa di prezioso Borgogna. Dissi a Juma di aprirne una bottiglia. Quando a tavola gli riempirono il bicchiere, Emanuelson, vuotandolo per metà, lo alzò verso la lampada e lo contemplò a lungo. Pareva stesse ascoltando una musica. «Fameux», disse, «fameux, è un Chambertin 1906». Aveva indovinato. Subito provai per lui un certo rispetto. Non feci altri sforzi per sostenere la conversazione. Io, dal canto mio, avevo ben poco da dirgli. Gli chiesi come mai non fosse riuscito a trovare lavoro? Non sapeva far nulla di utile in una vita come quella, rispose. Dall'albergo l'avevano licenziato, del resto non era neanche un vero maître d'hôtel. Sa tenere un libro cassa? Gli chiesi. No, proprio no, disse. Non sono capace nemmeno di fare una somma. Si intende un po' di bestiame? Di vacche vuol dire? No, no, le vacche mi fanno paura. Ma un trattore lo sa guidare? Chiesi. Un debole raggio di speranza gli illuminò il viso. No, disse, ma ecco una cosa che potrei imparare. Non con il mio trattore, però, dissi io. Ma mi dica, Emanuelson, che faceva prima? Cos'è lei nella vita? Si raddrizzò sulla sedia. Cosa sono? Esclamò. Un attore. Oh, grazie a Dio, pensai, anche volendo non lo potrei aiutare. Posso quindi fare quattro chiacchiere senza impegno. Un attore? Bene. E che parti preferiva quando recitava? Sono un attore tragico, dichiarò. Mi piaceva fare Armando nella Signora delle Camelie e Osvaldo negli Spettri. Avevamo trovato un argomento. Parlammo di quei drammi, degli attori da cui li avevamo visti recitare e di come, secondo noi, dovevano essere interpretati. E Manuelson si guardò intorno. Non ha mica il teatro di Ibsen, per caso. Potremmo recitare l'ultima scena degli Spettri se a lei non dispiace far la parte della signora Alving. Eh no, il teatro di Ibsen non l'avevo, ma forse la sa a memoria, disse, eccitato dalla sua idea. Per conto mio conosco la parte di Osvaldo dalla prima parola fino all'ultima. La scena finale è la migliore, quella è insuperabile, sa, per l'effetto tragico. Era una bella notte, calda e stellata. Fra poco sarebbero iniziate le grandi piogge. Chiesi a Emanuelson se davvero volesse andare a piedi a Tanganica. Sì, disse. Ora mi farò io stesso da suggeritore. È una fortuna per lei non avere moglie, osservai. Già, ammise, già. Ma dopo un poco aggiunse umilmente: ce l'ho la moglie, però. Durante la conversazione, Manuelson si era lamentato che un bianco in Africa non fosse in grado di guadagnarsi da vivere perché gli indigeni lavoravano per un tozzo di pane. A Parigi, disse, potrei sempre trovare lavoro come cameriere in qualche caffè. E perché non è rimasto a Parigi allora? Mi lanciò un'occhiata eloquente. A Parigi? No, no, davvero, me ne sono andato proprio al momento giusto. Aveva un solo amico al mondo e tornò a parlarne più volte quella sera. Se solo avesse saputo dove si trovava. Per lui le cose sarebbero andate ben diversamente. Stava bene quello là ed era molto generoso. Di mestiere faceva il prestigiatore e viaggiava per tutto il mondo. L'ultima volta Emanuelson aveva avuto sue notizie da San Francisco. Dal teatro e dalla letteratura si tornava sempre a parlare del futuro di Emanuelson. Mi raccontò che i suoi compatrioti in Africa gli avevano voltato le spalle ad uno. Lei è in una brutta situazione, osservai. In questo momento è la persona più inguaiata che conosca. Lo credo anch'io, rispose. Poco fa, però, pensavo una cosa che forse a lei non è mai venuta in mente. Uno più inguaiato di tutti ci deve sempre essere. La bottiglia ormai era finita e scostò il bicchiere. Questo viaggio, disse, per me è come un gioco d'azzardo, le rouge et le noir. È un'occasione per tirarmi fuori dei guai. Potrebbe anche darsi che sfuggirei ad ogni cosa del genere. D'altra parte, se raggiungo il Tanganica, potrò forse reinserirmi nella vita. A Tanganica ci arriverà probabilmente, dissi. Può chiedere un passaggio a qualche autocarro indiano che vada in quella direzione? Sì, rispose. Rimase un po' in silenzio. Lei crede in Dio? Gli chiesi. Sì, rispose. Rimase un po' in silenzio. Forse lei penserà che sono troppo scettico, riprese, se le dico una cosa, ma all'infuori di Dio non credo assolutamente in nulla. Vediamo, dissi, soldi ne ha? 80 cents. Non bastano, dissi, e io non ho niente in casa, ma forse a qualcosa farà. Aveva 4 rupie. La mattina dopo, un po' prima dell'alba, disse ai ragazzi di svegliare Manuelson e di prepararci la colazione. Durante la notte avevo deciso di accompagnarlo in macchina per una ventina di chilometri. Non era un gran vantaggio per Manuelson, al quale rimanevano ancora 130 chilometri da percorrere a piedi, ma l'idea di vederlo andare incontro al suo destino incerto proprio dalla soglia di casa mia non mi garbava. In un modo o nell'altro, inoltre, volevo partecipare anch'io alla sua commedia o tragedia che fosse. Gli preparai un pacco di sandwich e uova sode. Siccome aveva dimostrato di saperlo apprezzare, gli detti anche una bottiglia di Chambertin 1906. Forse sarebbe stata l'ultima bottiglia che beveva in vita sua. Nella luce dell'alba pareva uno di quei cadaveri leggendari a cui sottoterra cresce la barba. Ma uscendo di buon grado dal suo sepolcro, fu molto cortese ed equilibrato per tutto il viaggio. Passato il fiume Mabagati, lo feci scendere. L'aria del mattino era limpida, il cielo senza nubi. Emanuelson doveva dirigersi verso sud-ovest. Mentre guardavo l'orizzonte davanti a me, si levò un sole rosso smorto, come il tuorlo delle uova sode. Mi venne fatto di pensare. Di lì a qualche ora sarebbe diventato di un bianco incandescente, picchiando senza pietà sul capo del viandante. Emanuelson mi disse addio e si avviò, ma tornò indietro per salutarmi un'altra volta. Lo osservavo dalla macchina, pareva contento di avere uno spettatore. Il suo istinto drammatico era così forte che in quel momento aveva viva la sensazione di uscire di scena, di sparire, quasi potesse assistere alla propria partenza con gli occhi stessi del suo pubblico. Emanuelson se ne va. Non potevano le colline, i rovi, la strada polverosa impietosirsi un attimo, trasformarsi in quinte di cartapesta? Nella brezza dell'alba, il lungo soprabito nero gli ondeggiava intorno alle gambe. Gli spuntava da una tasca il collo della bottiglia. Mi sentivo piena d'amore e di gratitudine. L'amore e la gratitudine che prova chi resta per i viaggiatori e i girovaghi, i marinai, gli esploratori e i vagabondi. Arrivato in cima alla salita, si tolse il cappello e lo sventolò verso di me. I capelli lunghi gli si scompigliarono sulla fronte. Farah, che era in macchina con me, chiese: "Dove va il Buana?" Emanuelson aveva dormito da noi e Farah, per rispetto della propria dignità, lo chiamava Buana. "In Tanganica," dissi. "A piedi?" "Sì, Allah sia con lui," disse Farah. Tutto il giorno non riuscii a levarmi dalla testa Emanuelson. Ogni tanto uscivo a guardare verso la strada del Tanganica. La sera, saranno state le 10, sentii un leone ruggire in lontananza, in direzione sud-ovest. Dopo una mezz'ora il ruggito si ripeté. Forse stava accucciato su un vecchio soprabito nero. Tutta la settimana cercai di avere notizie di Emanuelson. Dissi anche a Farah di chiedere ai suoi amici indiani che si recavano con l'autocarro a Tanganyika se per caso qualcuno lo avesse incontrato per strada, ma nessuno sapeva niente. Erano passati quasi 10 mesi quando ricevetti una raccomandata da Dodoma. Lì per lì fui sorpresa perché non vi conoscevo nessuno. La lettera era di Emanuelson. Mi rimandava le 50 rupie che gli avevo prestato quando aveva tentato di scappare e le 4 rupie di Farah. A parte i soldi, gli ultimi soldi al mondo che mi sarei aspettata di rivedere, era una lettera simpaticissima, lunga e piena di garbo. Aveva trovato lavoro come barman, immaginarsi che tipo di bar poteva esserci a Dodoma, e tirava avanti bene. Evidentemente sapeva mostrarsi grato, ricordava ogni particolare della serata alla fattoria e non si stancava di ripetere che si era sentito fra amici. Descriveva minutamente il viaggio fino al Tanganyika, parlando molto bene dei Masai che, incontratolo lungo la strada, lo avevano accolto con grande gentilezza e senso di ospitalità. Quasi tutto il viaggio, naturalmente pieno di deviazioni e di soste, lo aveva fatto insieme a loro. Si divertivano tanto al racconto delle sue avventure in altri paesi che non lo volevano più lasciare andare. Non sapendo una parola di Masai, doveva essere ricorso alla pantomima per narrare la sua odissea. Era giusto, pensai, che Emanuelson avesse chiesto rifugio ai Masai e che essi lo avessero accolto. Solo i veri aristocratici e i veri proletari del mondo capiscono la tragedia. Per loro è il principio fondamentale di Dio e la chiave minore dell'esistenza. In questo sono diversi dai borghesi di tutte le categorie, che non solo negano la tragedia, ma sono incapaci di sopportarla. La parola stessa per loro significa qualcosa di tristo. Molti malintesi fra gli immigrati bianchi di classe media e gli indigeni nascono proprio da questo. Gli intrattabili Masai, aristocratici e proletari insieme, avranno riconosciuto subito un personaggio da tragedia nel solitario viandante vestito di nero e accanto a loro, l'attore tragico, era ridiventato se stesso.